Sedicela. Domani montagna? Ah, ok. Che cagna? Ancora? Dove ti ha dato la placca? Gli hai detto dove deve ficcarsene le mani? Ah, è così, a te va bene così. Il cazzo gli devi dire, sono qua per lavorare, non per farmi toccare a saltare la vacca. Non glielo dici? Vaffanculo, vaffanculo, lo sapevo che... L'unica donna pia sicuro è stata Maria. Quelle che conosco l'hanno data più non posso. Che sia io che sia Sofia, sia che tutte quante per qualcosa l'hanno data via. Chi per depressione, sia per vocazione, chi dopo il ciclo ha bisogno di attenzione, chi l'ha comunato ad una conseguenza naturale della maturazione. Sono stufo di fare il coglione, quando ricordo mi viene il magone. Mi guardo eccitato con sguardo sognone, perché io delle teorie sarò il mattatore. Ricordo davvero un tenero amore, sì. Nessuno può odiare le gentili signore. Loro ci tengono, sì, al nostro cuore, non ci farebbero provare dolore. Ascolto un cretino, son tutte balle. Lì c'è il cestino, butta tutto alle spalle. Queste son belle, ti dicono pure che strazio se rompi palle. Brutte battone, vi prendo io un nuovo scialle. Poi vi appendo legate alle ascelle. Vi farò avere sì il vostro Achille, dopo che avete schiantato su 4 stelle. Ehi, sono stanco, per piacere parlane. Digli che non è il modo di comportarsi, che se deve sfogarsi può andare a rinfocillarsi di riviste. Digli che continuare così non esiste, che per te è triste dover lavorare e essere trattata come un oggetto, e che io non l'accetto, che se va avanti così non smetto di starti addosso, perché non posso sopportare tutto questo. Io detesto dover andare contro me stesso, se dover spaccare il culo a qualcuno. Per piacere diglielo, è il modo più giusto. Non ho voglia di tirare su un trambusto per un vecchio che si gusta un fusto ed è esausto. Quando aziendale si cerca e si assume, solo la prima si viene in costume. Poi piano piano a nudo integrale, cazzo ragazza vieni a succhiare. Non si può lavorare senza un artista che mi apre la mente e mi innesta la pista. Se poi una sester è pure teppista, non sarei più nemmeno razzista. Calmo, tranquillo, non andrà in porto. Dopo un minuto ero già quasi morto. Erano almeno 52 squillo, tutte già nude con il passaporto ed il portafoglio pronte all'aborto. Mettimi incinta, tagliamo corto. Ma sono sveglio? Cazzo, sei torto. Ma guarda questo, è proprio tonto. Pronta a vendersi e a perdere un figlio. Per aver soldi si farebbe un coniglio. E questi stronzi ci provano allora. Ma io sarò lì a tagliargli la gola. E poi si inchina e i miei piedi mi implora. Ti prego, era eccitato da quella suora. L'hai fatta franca bastardo finora. No, era Carla. Oh porca troia, mi parte lo schizzo e gli taglio il tocco. Ripenso a Fabrizio, Maurizio, mi incazzo. Prendo il bacetto e vado in azienda. Ma dove vai? A fare più spazio. Sono davvero stanco di finire sempre così. È sempre la stessa maledetta storia, tu e i tuoi cazzo di moghi da Bayor, non li sopporto. Tagliamo corto, o ti giuro vengo dal tuo capo e gli faccio capire che cosa sta facendo lo storpio. Se vengo lì poi è peggio, perché esplodo, faccio un colabrodo e dico tutto quello che penso. E quello che penso è come una fottuta meteora che si frange sulla terra. La situazione peggiora solo perché hai voluto fare a modo tuo. Non venirmi a dire sono uno stronzo, perché poi mi incazzo ancora di più e divento nero di rabbia e ti rinchiudo in gabbia. Varco l'ingresso e non c'è nessuno. Sono depresso ogni giorno digiuno. Mi faccio un espresso che stresso. Adesso giro a sinistra e via per il cesso. Sento i gemiti da lì provenire. Apro la porta, ti già sta per venire. Vedo una vacca, la guardo storta. Le chiude la bocca e si pinge morta. Il tizio è bloccato e si sporca addosso. Vorrei mutilarlo ma ancora non posso. Non trovo il bacetto, dove l'ho messo? Ho preso l'espresso, oh maledetto. Comunque lo stendo per il lo appendo. Lo carico di peso con ferro e cemento. E dopo 2 clic è già sangue il vento. Apposta anche questo ora sono contento. Giù per le scale nel corridoio mi butto a terra tra che io orgoglio. Se questa è una guerra ho perso. Speravo in un mondo davvero diverso, ma ora ho capito com'è questa storia. C'è sempre una teoria in cerca di gloria. E 100 coglioni dai sensi bloccati che vedono finire occhiali armani, armati di voglia di dire in giro. Quella parola è un vandalismo divino. Vogliono trombare e screditare, ma cazzo nessuno pensa più all'amore. Sono io davvero il coglione che soffre come un trio per problemi di cuore. Non provo niente oltre odio e dolore, e vedo nel rosso ogni nuovo colore. Devo calmarmi, lo devo fare ma non ci riesco. Questo è peggio di ingoiare pesce ancora fresco. Questo è molto più indigesto e se mi attivo diventi il fesso, lo prendo nel culo. Se solo potessi attaccarei al muro lui, tu e tutti quelli che vorrei mandare a fanculo. Ma non posso fare niente ed è indecente che io sia sempre il povero pezzente che non capisce niente, che se la prende per poco. Io ribollo, io spello fuoco. Tu lo fai sembrare un gioco, ma se mi parte il matto ti faccio scacco matto. E poi ti ritrovi un pacco ed un biglietto con scritto il dado al tratto. Vaffanculo, vaffanculo cazzo. Che razza di storia è questa, che tu sei fatta così? E io sto qua a guardarti mentre fai così? E vai a farti fottere allora. Non voglio avere più niente a che fare con te. Che merda!